C'erano momenti in cui Bulstrode avvertiva che la sua azione non era giusta, ma come tornare indietro? Scrutò nei propri pensieri, chiamò se stesso un nulla, mise le mani sulla redenzione e proseguì sul sentiero che faceva di lui uno strumento divino. E dopo 5 anni la morte si presentò di nuovo a spianargli la strada, portandogli via la moglie. Poco a poco ritirò il suo capitale, ma non fece i sacrifici necessari per porre termine all'attività, che in seguito venne portata avanti per 13 anni, prima che fallisse definitivamente. Frattanto, Nicholas Balstrow aveva usato le sue 100.000 sterline con discrezione e stava acquistando una solida importanza in provincia. Banchiere, uomo di chiesa, pubblico benefattore. Inoltre, socio culto in imprese commerciali in cui la sua abilità era diretta a economizzare sulle materie prime, come nel caso dei colori che facevano marcire la seta di Mr. Vincey. E adesso che questa rispettabilità durava indisturbata da quasi 30 anni, quando tutto ciò che l'aveva preceduta era rimasto a lungo intorpidito nella coscienza, quel passato era risorto e aveva sommerso i suoi pensieri quasi con la terribile irruzione di una nuova sensibilità che sovraccaricava il debole essere. Frattanto, nella sua conversazione con Raffles, aveva appreso qualcosa di grande importanza, qualcosa che era entrato attivamente nella lotta dei suoi desideri e dei suoi terrori. Là, egli pensò, c'era una possibilità di redenzione spirituale, forse materiale. La salvezza spirituale era un bisogno genuino per lui. Può darsi che ci siano rozzi ipocriti che consapevolmente affettano credenze e sentimenti allo scopo di gabbare il mondo, ma Balstrow non era uno di questi. Era semplicemente un uomo i cui desideri erano stati più forti delle sue credenze teoriche e che aveva gradualmente portato a furia di giustificazioni la gratificazione dei propri desideri a un accordo soddisfacente con quelle credenze. Se questa sia ipocrisia, è un processo che appare occasionalmente in tutti noi, a qualsiasi religione apparteniamo, e sia che crediamo nel perfezionamento futuro della nostra razza o nella data più vicina fissata per la fine del mondo, sia che consideriamo la Terra un focolaio in putrefazione per degli eletti destinati a salvarsi, compresi noi stessi, sia che crediamo con tutte le nostre forze nell'umana solidarietà. Il servizio che poteva fare alla causa della religione era stato per tutta la vita il motivo addotto a se stesso per la scelta del suo modo di agire. Era stato il motivo che aveva riversato nelle proprie preghiere. Che avrebbe usato il denaro e la posizione sociale meglio di quanto intendeva fare lui? Chi poteva superarlo per l'orrore di sé e l'esaltazione della causa di Dio? E per Mr. Balstrow la causa di Dio era qualcosa di distinto dalla rettitudine della propria condotta. Essa lo aiutava a distinguere i nemici di Dio, che dovevano essere usati semplicemente come strumenti, e che sarebbe stato bene, se possibile, tenere lontano dal denaro e dall'influenza che ne derivava. Inoltre, gli investimenti produttivi nel commercio, dove la forza del principe di questo mondo mostrava i propri stratagemmi più attivi, venivano santificati da un giusto uso dei profitti nelle mani del servo del Signore. Questo ragionamento implicito essenzialmente non è più caratteristico della credenza evangelica di quanto non lo sia per gli inglesi l'uso di ampie frasi per motivi angusti. Non vi è una dottrina generale che non sia capace di corrodere la nostra moralità se non sia tenuta a freno da una radicata abitudine alla comprensione diretta del nostro prossimo. Ma un uomo che crede in qualcos'altro oltre alla propria avidità ha necessariamente una coscienza o un principio a cui più o meno si adatta. Il principio di Balstrow era stato la sua utilità alla causa di Dio. Io sono un peccatore, un nulla, un recipiente da essere consacrato con l'uso, allora usami. Era stata la forma entro cui aveva costretto il suo immenso bisogno di essere qualcosa di importante e di dominante. Ed ora era giunto il momento in cui la forma sembrava correre il pericolo di venire infranta e gettata completamente via. Cosa sarebbe accaduto se gli atti a cui si era rassegnato, perché facevano di lui uno strumento più forte della gloria divina, fossero divenuti il pretesto del dileggiatore e un oscuramento di quella gloria? Se questa fosse stata la decisione della provvidenza, egli era cacciato dal tempio come uno che aveva recato offerte impure. Da tempo pronunciava espressioni di pentimento, ma ora era giunto un pentimento che era di un sapore più amaro e una provvidenza minacciosa lo spingeva a una specie di espiazione che non era semplicemente una transazione dottrinale. Il tribunale divino aveva cambiato aspetto per lui. Il prostrarsi non bastava più ed egli doveva presentarsi con il risarcimento in mano. Era in realtà al cospetto del suo dio che Balstro stava per tentare l'unico risarcimento che sembrava possibile. Un gran terrore si era impadronito della sua persona sensibile e il bruciante approssimarsi della vergogna operò in lui un nuovo bisogno spirituale. Giorno e notte, mentre il minaccioso passato che non risorgeva stava ridestando una coscienza dentro di lui, egli pensava con che mezzo avrebbe potuto recuperare la pace e la fiducia. Per mezzo di quale sacrificio poteva fermare il castigo? In questi momenti di terrore, ciò che credeva era che se avesse fatto spontaneamente qualcosa di giusto, Dio l'avrebbe salvato dalle conseguenze del misfatto. Infatti, la religione può cambiare solo quando i sentimenti che ne sono il contenuto sono cambiati e la religione del terrore personale resta quasi allo stato di quella del selvaggio. Aveva visto Raffles andarsene effettivamente quella diligenza per Bressing e questo era un sollievo temporaneo. Lo liberava dall'oppressione di un timore immediato, ma non poneva termine al conflitto spirituale e al bisogno di mettersi al riparo. Alla fine giunse a una difficile risoluzione e scrisse una lettera a Will Ladislav pregandolo di essere a The Shrubs alle 9 di quella sera per un colloquio privato. Will non aveva provato alcuna particolare sorpresa di fronte alla richiesta e l'aveva messa in rapporto a qualche nuova idea sul Pioneer. Ma quando fu fatto entrare nella stanza privata di Mr. Balstrow, rimase colpito dall'aspetto penosamente sfinito del volto del banchiere e stava per dire: State male? Quando, frenando quella domanda brusca, si informò solo di Mrs. Balstrow e della sua soddisfazione per il quadro acquistato per lei. Grazie, è del tutto soddisfatta. Questa sera è uscita con le figlie. Vi ho pregato di venire, Mr. Ladislav, perché ho una comunicazione da farvi di natura assai intima. In effetti dirò sacramente confidenziale. Nulla, penso, è stato più lontano dai vostri pensieri dell'idea che in passato ci fossero stati dei legami importanti che potevano collegare la vostra storia con la mia. Will provò qualcosa di simile a una scossa elettrica. Si trovava già in uno stato di acuta sensibilità e di agitazione non certo placata riguardo a certi legami passati. I suoi presentimenti non furono piacevoli. Parevano le fluttuazioni di un sogno, come se l'azione iniziata da quel sonoro, borioso e estraneo fosse proseguita da questo campione di rispettabilità, dall'occhio pallido e dall'aspetto malaticcio, il cui tono sommesso e la cui disinvolta formalità di eloquio in questo momento suscitavano in lui una repulsione quasi uguale a quella suscitata dal ricordo del loro opposto. Egli rispose cambiando notevolmente di colore. No, in effetti nulla. Voi avete davanti, Mr. Ladislav, un uomo che è profondamente provato. Se non fosse per le insistenze della coscienza e per la consapevolezza che sono di fronte al tribunale di colui che non vede come vede l'uomo, non sarei costretto a fare la rivelazione per la quale vi ho chiesto di venire questa sera. Per quanto riguarda le leggi umane, voi non vantate su di me il minimo diritto. Will, più che stupito, si sentì ancora più a disagio. Mr. Balstrow si era fermato, appoggiando il capo sulla mano e guardando il pavimento, ma ora fissò il suo sguardo indagatore su Will e disse: Mi dicono che vostra madre si chiama Sarah Dunkrich e che fuggì dai suoi per darsi al teatro. Inoltre che vostro padre una volta venne a trovarsi assai prostrato dal male. Posso chiedervi se potete confermare queste affermazioni? Sì, corrispondono tutte a verità, disse Will, colpito dall'ordine con cui gli era giunta una domanda che si sarebbe potuti aspettare dovesse precedere le allusioni del banchiere. Ma Mr. Balstrow quella sera aveva seguito l'ordine dei propri sentimenti. Non nutriva alcun dubbio che il momento del risarcimento fosse giunto e sentiva un prepotente impulso verso l'espressione di quel pentimento con cui cercava di evitare il castigo. Siete a conoscenza di qualche particolare della famiglia di vostra madre? Egli continuò. No, non ha mai voluto parlarne. Era una donna assai generosa ed onorata, disse Will quasi con rabbia. Non voglio accusarla di nulla. Non vi ha assolutamente mai accennato a sua madre? L'ho sentita dire che pensava che sua madre non conoscesse il motivo della sua fuga. Diceva povera madre in tono di compassione. Quella madre divenne mia moglie, disse Balstrow. E poi tacque un attimo prima di aggiungere: voi avete dei diritti su di me, Mr. Ladislav, come ho detto prima, non un diritto legale, ma riconosciuti dalla mia coscienza. Venni arricchito da quel matrimonio, un risultato che probabilmente non avrebbe avuto luogo, certo non nella stessa misura se vostra nonna fosse riuscita a scovare sua figlia. Quella figlia, immagino, non è più al mondo. No, disse Will, sentendo il sospetto e la ripugnanza levarsi così forti dentro di sé che, senza del tutto sapere ciò che faceva, prese il cappello dal pavimento e si alzò. L'impulso interiore era di rifiutare il rapporto così rivelato. Vi prego, sedetevi, Mr. Ladislav, disse Balstrow in tono ansioso. Senza dubbio siete sorpreso dalla subitaneità della scoperta, ma vi imploro di essere paziente con uno che è già prostrato dal tormento interiore. Will tornò a sedersi, provando una certa compassione che era per metà disprezzo per questa volontaria umiliazione di un uomo anziano. È mio desiderio, Mr. Ladislav, riparare alle privazioni subite da vostra madre. So che siete senza patrimonio ed io desidero che attingiate in misura adeguata da un patrimonio che probabilmente possedereste già se vostra nonna fosse stata certa che vostra madre era in vita e fosse riuscita a rintracciarla. Mr. Balstrow si fermò. Sentiva che stava compiendo un eccezionale atto di scrupolosità a giudizio del suo ascoltatore e un atto di penitenza agli occhi di Dio. Non aveva alcuna indicazione riguardo allo stato d'animo di Will Ladislav, dolorante per la chiara allusione di Raffles, e quella sua naturale prontezza di interpretazione, stimolata dall'attesa di scoperte, che sarebbe stato lieto ricacciare nell'oscurità. Will per alcuni momenti non diede alcuna risposta, finché Mr. Balstrow, che al termine del suo discorso aveva abbassato gli occhi al pavimento, ora li sollevò con uno sguardo indagatore che Will affrontò in pieno dicendo: suppongo che voi invece sapevate dell'esistenza di mia madre e sapevate dove la si sarebbe potuta trovare. Balstrow si ritrasse, il suo volto e le mani tremavano visibilmente. Era totalmente impreparato a una simile risposta alle sue profferte o a trovarsi spinto a rivelare più di quanto in precedenza avesse stabilito che fosse necessario. Ma in quel momento non osò dire una menzogna e si sentì d'improvviso incerto sul terreno che fino ad allora aveva calcolato con una certa sicurezza. Non negherò che la vostra congettura sia giusta, rispose in tono esitante, e desidero fare ammenda verso di voi, in quanto siete l'unica persona che ancora resta che abbia subito una perdita per causa mia. Capite, spero, il mio scopo, Mr. Ladislav, che guarda a diritti più alti di quelli semplicemente umani e, come ho già detto, è completamente svincolato da qualsiasi obbligo legale. Sono pronto a ridurre le mie risorse e le prospettive della mia famiglia, impegnandomi a corrispondervi 500 sterline annue e a lasciarvi un capitale, ad esse proporzionato alla mia morte, anzi a fare ancora di più, se questo di più fosse chiaramente necessario a qualsiasi lodevole progetto che abbiate in mente. Mr. Balstrow si era lasciato andare ai particolari, nell'attesa che questi influissero profondamente sull'Ladislav e fondessero altri sentimenti in una grata accettazione. Ma Will appariva il più ostinato possibile, col suo labbro increspato e le dita nei taschini del panciotto. Non rimase minimamente commosso e disse con fermezza: prima di dare una qualsiasi risposta alla vostra offerta, Mr. Balstrow, vi devo chiedere di rispondere a un paio di domande. Avete avuto a che fare con l'attività con cui fu costruita originariamente la fortuna di cui parlate? Il pensiero di Messer Balstrow fu, Raffles gliel'ha detto. Come poteva rifiutarsi di rispondere quando aveva offerto ciò che ispirava la domanda? Rispose, sì. E quell'attività era o non era completamente disonorevole, anzi, tale che se la sua natura fosse stata resa pubblica, avrebbe messo le persone coinvolte in essa a livello di ladri, di galeotti. Il tono di Will aveva un'amarezza tagliente, era spinto a porre le domande nel modo più crudo che poteva. Balstro arrossì in preda a un'ira irreprimibile. Era stato preparato a una scena di umiliazione, ma il suo profondo orgoglio e la sua abitudine a comandare ebbero la meglio sul pentimento e persino sul timore, quando questo giovanotto che gli aveva inteso beneficiare si rivolse a lui con l'aria di un giudice. L'attività era iniziata prima che io ne venissi a conoscenza, signore. Ne sta a voi istituire un'indagine di quel genere, egli rispose senza alzare la voce, ma parlando con rapida aria di sfida. Sì che sta a me, disse Will alzandosi di nuovo col cappello in mano. Sta soprattutto a me porre simili domande. Quando devo decidere se tratterò con voi e accetterò il vostro denaro. Il mio onore senza macchia per me è importante. Per me è importante non avere alcuna macchia sulla mia nascita e sulla mia parentela, e ora scopro che c'è una macchia che non posso evitare. Mia madre se ne rese conto e cercò di tenersene più alla larga che poté, e così farò io. Voi eviterete il vostro denaro guadagnato disonestamente. Se avessi un qualsiasi patrimonio di mio, lo darei volentieri a chiunque fosse in grado di smentire ciò che mi avete detto. Ciò di cui vi devo ringraziare è che avete conservato il denaro fino ad ora, quando posso rifiutarlo. Dovrebbe stare alla coscienza di un uomo stabilire che è gentiluomo. Buonanotte, signore. Balstro stava per parlare, ma Will con decisa rapidità fu fuori dalla sala in un istante. E l'attimo successivo il portone principale si chiuse dietro di lui. Era troppo preso da un'appassionata ribellione contro questa macchia ereditaria di cui era stato messo a conoscenza per riflettere al momento se non fosse stato troppo crudele con Balstrò, di un'arroganza troppo spietata verso un uomo di 60 anni che si stava sforzando di riparare quando il tempo aveva reso vani i suoi sforzi. Nessuna terza persona presente avrebbe potuto comprendere in modo completo l'impetuosità del rifiuto di Willow, l'amarezza delle sue parole. Nessuno tranne lui. Allora sapeva come tutto ciò che era connesso col senso della propria dignità per lui aveva un'attinenza immediata col suo rapporto con Dorothea e il modo in cui Mr. Casaubon l'aveva trattato. E all'impeto istintivo con cui rifiutò l'offerta di Balstrò era misto il senso che non gli sarebbe mai stato possibile dire a Dorothea che l'aveva accettata. Quanto a Balstrò, quando Will se ne fu andato, ebbe una violenta reazione e pianse come una donna. Era la prima volta che veniva affrontato con un'aperta espressione di disprezzo da una persona qualsiasi più elevata di Raffles, e con quel disprezzo che gli scorreva come veleno nel corpo, restava insensibile a qualsiasi consolazione. Ma il sollievo del pianto dovette venire frenato. La moglie e le figlie ben presto rincasarono dopo aver ascoltato il discorso di un missionario orientale. Erano addolorate assai che il padre non avesse udito in primo luogo le cose interessanti che cercarono di ripetergli. Forse fra tutti gli altri pensieri nascosti, quello che gli dava maggiore conforto era che probabilmente Will Ladislav, perlomeno, non avrebbe rivelato ciò che aveva avuto luogo quella sera. Capitolo 62. Will Ladislav ormai era completamente deciso a rivedere Dorothea e subito dopo a lasciare Middlemarch. Il mattino successivo al suo incontro agitato con Balstrow, le scrisse una breve lettera in cui diceva che vari motivi l'avevano trattenuto sul posto più a lungo di quanto si fosse aspettato e le chiedeva il permesso di ripassare da Lowick a un'ora che lei avrebbe stabilito, nel giorno più vicino possibile, dal momento che era ansioso di partire ma non voleva farlo finché lei non gli avesse concesso un colloquio. Lasciò la lettera all'ufficio, ordinando al fattorino di portarla a Lowick Manor e di attendere la risposta. Ladislav si sentiva imbarazzato a chiedere altre parole di commiato. Il suo addio precedente era stato udito da Sir James Chatham ed era stato annunciato come definitivo persino al maggiordomo. È certo irritante per la dignità di un uomo ricomparire quando non lo si aspetta. Nel primo commiato c'è del pathos, ma tornare per un secondo può dare esca al comico. Ed era persino possibile che si facessero amari sogghigni sui motivi di Will per indugiare. Eppure, tutto sommato, approfittare del mezzo più diretto di vedere Dorothea soddisfaceva di più la sua sensibilità, invece di ricorrere a qualsiasi sotterfugio che avrebbe potuto dare un'aria di casualità a quell'incontro. Voleva che lei capisse che era ciò che egli cercava seriamente. Quando si era separato da lei la volta prima, egli ignorava fatti che conferivano un nuovo aspetto al loro rapporto e rendevano la separazione più definitiva di quanto egli avesse creduto. Egli non sapeva nulla del patrimonio privato di Dorotea ed, essendo poco abituato a riflettere su simili questioni, prese per scontato che, secondo le disposizioni di Mr. Casabo, un matrimonio con lui, Will Ladislaw, avrebbe significato che lei acconsentiva a restare senza un soldo. Ciò non era quanto egli potesse desiderare, anche nel più profondo del cuore, o persino se lei fosse stata pronta ad affrontare un cambiamento così duro per amore di lui. E poi vi era anche la ferita fresca della rivelazione sulla famiglia di sua madre, che, se resa pubblica, sarebbe stata un'ulteriore ragione perché i parenti di Dorotea lo considerassero completamente inferiore a lei. La speranza segreta che dopo alcuni anni egli potesse tornare con la consapevolezza di avere almeno un valore personale all'altezza delle ricerche di lei, ora sembrava la sognata continuazione di un sogno. Questo cambiamento lo avrebbe certamente giustificato nel chiedere a Dorotea di riceverlo ancora una volta. Ma quel mattino Dorotea non era in casa per ricevere il biglietto di Will. In seguito a una lettera dello zio che annunciava la sua intenzione di essere di ritorno nel giro di una settimana, si era recata in carrozza prima a Freshitt a portare la notizia, con l'intenzione di proseguire per la Grange a dare alcuni ordini che lo zio le aveva comunicato, considerando, come diceva, un po' di attività mentale di questo genere buona per una vedova. Se Will Ladislaw avesse potuto udire alcuni dei discorsi a Freshitt quella mattina, avrebbe pensato che tutte le sue supposizioni sulla prontezza di certa gente a sghignazzare sul suo indugiare sul posto erano confermate. Sir James, infatti, sebbene assai sollevato riguardo a Dorotea, era stato allerta sui movimenti di Ladislaw e aveva un informatore avvisato il Mr. Standish, il quale necessariamente su questo argomento godeva della sua fiducia. Che Ladislaw fosse rimasto a Middlemarch per quasi 2 mesi dopo aver dichiarato che aveva intenzione di andarsene immediatamente era un fatto che inaspriva i sospetti di Sir James, o perlomeno giustificava la sua avversione per un giovanotto che egli si figurava di poco conto, incostante e probabilmente capace di mostrare una sconsideratezza che era naturale compagna di una posizione non fissata da vincoli familiari o da una ben precisa professione. Ma aveva appena sentito qualcosa da Standish che, mentre giustificava tutte queste supposizioni su Will, offriva il destro di sbarazzarsi di ogni pericolo riguardo a Dorotea. Circostanze insolite ci possono rendere tutti piuttosto diversi da noi stessi. Vi sono casi in cui la persona più maestosa è obbligata a starnutire e le nostre emozioni sono soggette a venire manipolate nello stesso modo incongruo. Il buon Sir James quella mattina era così diverso da sé che era ansioso fino all'irritazione di dire qualcosa a Dorotea su un argomento che di consueto evitava, come se fosse stata una questione vergognosa per entrambi. Non poteva servirsi di Celia come intermediaria, perché non desiderava che sapesse il genere di pettegolezzo che egli aveva in mente, e prima che Dorotea per caso arrivasse, aveva cercato di immaginare in che modo, con la sua timidezza e la lingua poco sciolta, potesse mai riuscire a esprimere la sua comunicazione. L'arrivo inaspettato di lei lo indusse a disperare nel modo più completo della propria capacità di dire qualcosa di spiacevole, ma la disperazione suggerì uno stratagemma. Mandò lo stalliere su un cavallo non sellato al di là del parco con una nota scritta a matita per Mrs. Cadwallader, la quale era già a conoscenza del pettegolezzo e non avrebbe pensato di compromettersi a ripeterlo quante volte voleva. Dorotea venne trattenuta col buon pretesto che Mr. Garth, che lei desiderava vedere, era aspettato al palazzo di Leonora e stava ancora parlando con Caleb sulla ghiaia, quando Sir James, in attesa ansiosa della moglie del pastore, la vide arrivare e le andò incontro con le necessarie allusioni. «Basta! Capisco!» disse Mrs. Cadwallader. «Voi non avrete colpa! Io sono una tale canaglia che non posso restarne macchiata!» Non voglio dire che abbia una qualsiasi importanza, disse Sir James, non volendo che Mrs. Cadwallader capisse troppo. Solo è desiderabile che Dorotea sappia che ci sono motivi per cui non lo dovrebbe ricevere di nuovo, e io veramente non posso dirglielo. Da voi la cosa verrà senza sforzo. E venne proprio senza sforzo. Quando Dorotea lasciò Caleb e si voltò per entrare al loro incontro, pareva che Mrs. Cadwallader avesse attraversato il parco per il più puro caso del mondo, solo per chiacchierare del bambino con Celia come madre di famiglia. E così Mr. Brooke stava per tornare? Delizioso, per tornare, si sperava, guarito completamente dalla febbre parlamentare e dalla voglia di fare il pioniere. A proposito del Pioneer, quando Qualcuno aveva profetizzato che ben presto sarebbe stato come un delfino moribondo e sarebbe diventato di tutti i colori non sapendo come aiutarsi, perché il protégé di Mr. Brooke, il brillante giovane Ladislav, se n'era andato o stava per andarsene. Sir James l'aveva saputo? I tre stavano percorrendo lentamente il sentiero gaioso e Sir James, voltandosi di lato per frustare un arbusto, disse di aver sentito qualcosa del genere. Tutto falso, fece Mrs. Cadwallader. Non se n'è andato, né sta per andarsene, a quanto pare. Il Pioneer conserva il suo colore politico e Mr. Orlando Ladislav sta combinando un triste scandalo gorgheggiando continuamente con la moglie del vostro Mr. Lydgate, che mi dicono sia quanto di più carino ci può essere. Sembra che nessuno entri mai in casa senza trovare questo giovane gentiluomo disteso sul tappeto o a gorgheggiare al piano. Ma la gente della città, industriale, ha sempre avuto una pessima reputazione. Avete cominciato dicendo che una voce era falsa, Mrs. Cadwallader, e credo che sia falsa anche questa, disse Dorothea con energica indignazione. Perlomeno sono certa che si tratti di un travisamento. Non voglio sentire in alcun modo parlare male di Mr. Ladislaw. Ha già sofferto troppe ingiustizie.